Senti la potenza di musica che spaventa. Fino alla fine devi stare allerta. Resto sempre in piedi. Nel gioco vinci in base a ciò che possiedi. Io sto sempre qua, faccio esaltare. Lo stile lo sai che è fenomenale. Con tutte le tue forze tu devi lottare, altrimenti non ci devi neanche provare. Non puoi tirarti fuori, ormai ci stai dentro. Scaglia la tua freccia, colpisci al centro. Sai quante cazzate ogni giorno si sentono, quante cazzate con amici che si pentono. Devi resistere fino all'estremo. Un passo falso qui non è concesso. Buona fortuna è ciò che resta da augurare, perché adesso scatta l'ora cruciale. Fino all'estremo lotterò, ti dico che ce la farò. Non puoi proprio buttarmi giù, perché io salgo sempre più. Fino all'estremo lotterò, ti dico che ce la farò. Non puoi proprio buttarmi giù, perché io salgo sempre più. Alterò le frequenze, ho delle dipendenze. Sono sempre presente, mentre tu sei negligente. Guarda di dentro e trovi la tua sorte. Apri la tua mente e aprire le porte. Ciò che vorrai, tu lo avrai. Ciò che non potrai avere, te lo prenderai. Devi insistere fino alla fine, convincerti che il tuo stile è sublime. Vado in paranoia per ogni brutta storia, e avvolto pure dei vuoti di memoria. Ma non mi tiro giù, io sono sempre qua. Divento per te la voce della verità. Non esiste varietà, smog è l'unica realtà. Non dimostri la rarità, io son senza pietà. Fino all'estremo lotterò, ti dico che ce la farò. Non puoi proprio buttarmi giù, perché io salgo sempre più.